10, c'è qualcuno all'ascolto? Un ataloide. E bip. Chop. Ah? Chop. 18? O 118? Chip chop. Ah, chip chop. Vabbè. E a Londra? Molto giù, eh. Anch'io sto entrando ben poco. Poco niente. Saluto, un'oretta. Seppure. Poi c'è Bonolis alle 7:10, non me lo voglio perdere. Al limite entra Natalino quando entra. Pazienza. Vuol dire che è destinata la 27. Perciò io mi sto premunendo di vendermi un po' di roba. Ah, io ce l'ho faccio da 20. Qualche baracchino in più, qualche bibanda in più, capito? Solo che mi chiamano per cagate solo, per informazioni, tipo un baracchino è spazio di frequenza, no? Un baracchino che fa 26-30, uno mi chiede, ma è omologato? Come può essere omologato se fa dai 26-30 MHz? È chiaro di no. Gente che non ne capisce una mazza mi contatta, capito? Beh, se è omologato non è omologato. Ehia. Ui, ui. Va bene. Natalino, sei uscito dal letargo? Ci sei? No, no, oggi tutto tace. Io sto mangiando, mi sto finendo di mangiare. Se non c'è nessuno, buon viaggio. Mi attacco alla TV. Mi dicevo scendi rocci, mi con la tosse. È vecchiando stai qua. No, è la tubercolosi. È la tubercolosi. Proprio io, mica no. Che non sto andando con nessuna, figurati se mi posso abbigliare quella, ma mi devo rifare, devo spruzzare forte appena mi capita. La devi? Spruzzare forte. Ah, ci vuole lo spruzzino a casa, metto un blicco. No, ce n'ho uno io qua, mi è lungo, peloso. Ma tranquillo, se sei a casa non lo spruzzo. Cioè lungo, vabbè, relativamente lungo, però già spruzza bene quando deve spruzzare. Bene. E beh, PMR, gente, ce ne sta entrando, perché io ho staccato l'antenna proprio del ricevitore, tolta. L'ho messa in terrazzino perché dà più fastidio che altro. E non me la fatti più dubbi. Vendo tutto. Ho messo infatti su un forum italiano la roba. Non qua, perché qua non vendi niente. Guarda, anche io sto vendendo il mio. No, ma questo lo stai vendendo? No, il VU. Ah, il cos'è, portatile? Sì, sì. Via. Ma ti conviene metterlo su Roger K, mi? Su quel forum italiano Roger K, sono CB e radioamatori. Capito, è il più frequentato in assoluto. No, io lo mando qua a Sassari. Qualcuno se lo comprerà. No, la ginica in chi va a girarmi il cartoli a fare qualche pacchettino. Se no, lo mando qua. Se no, niente. Ehi, anch'io dicevo così, solo che purtroppo se vuoi vendere devi spedire fuori, perché qua... Oh, qua sono legna verde tutti, capito? Va bene. Che modello è quello, si può dire? Cazzo, adesso non me l'ha messo. Se non me lo ricordo, aspetta, ce l'ho scritto qua. Ma tipo il 5R Plus? Il GT3. Sì, il GT3 è Mark Book. Mark 2 o Mark 3, sì, bello quello. Quello è bello, c'era anche un'altra persona. Bell'apparecchietto. Sì, se qualcuno è interessato già si può vendere, quello mi pare abbia 8 watt addirittura. 1, 4, 8 watt, forse in VHF ne darà 7, penso. Ok. Per esempio, il portatile io lo tengo perché, vabbè, ne ho tanti i portatili, PMR, non PMR. Quelli sono sempre utili, perché sono piccoli, capito? Il resto, vaffanguala il resto. Vabbè, qua è lì, non è che... Ma, comunque, alla fine non è che me ne fosse tenuto tanto. Ma perché non stai più entrando in PMR? No, non c'è più nessuno. Oh, e come mai c'è questa ecatombe improvvisa? Cosa è successo? Qualcosa? No, non credo. Ehi, a periodi. Prova sul 23 al limite, se c'è qualcuno. Che o stanno al 23 o stanno in PMR. KK. Va bene Luca, caro Luca. Qua roba là l'abbiamo ordinata con Luca, qua non è arrivata. Sì, su AliExpress. Cos'è ordinato? Lo schermo, ci mette un bel po', Un mese, certe volte anche un mese e mezzo. Ma sai perché? Dalla Cina all'Italia ci mette 3 giorni. Sono quei farabutti della dogana che passano ogni pacco, vedono se si può ricavare qualcosa, capito? C'hanno una marea di pacchi bloccati. Se lo arriverebbe in 3-4 giorni, 5 massimo. È la dogana che blocca il flusso di pacchi, capito? E vede quelli dove si può guadagnare. Guarda, la dogana italiana è la peggiore di tutta Europa. Ah, così è. Ebbene, in un paese parassita come l'Italia, figurati se lo Stato non ci vuole guadagnare. Capito? In altri paesi è molto meno cieca, capito? No? E vabbè, ogni paese ha la dogana che si merita, come politici. Eh? Buonasera. Io spero che vadano in medicina quei soldi. Tutti in medicina. Eia, ho in chemioterapia, come ho detto a un vigile una volta, lo sai. Proprio soldi rubati, perché anziché a 4 metri dall'incrocio, a 5 metri dall'incrocio era 4 metri. Ma non dava fastidio né limitava la visuale, beh, la multa hanno fatto. E gli avevo detto, tanto quei soldi li vanno in chemioterapia. La soddisfazione mi sono tolto. Buonasera, chi è Natalino? Eia, buonasera a tutti, non so chi ci sia, non ho fatto ascolto, c'è da penare. Qua ci sono io e Luca del Monte, boh. Ciao Luca. Ebbè Natalino, sono arrivati i pezzi del computer di Stefano e glielo sto piazzando, dai, c'ho un portatile che purtroppo hanno rotto, cioè non so, se è caduto, boh. E sto cambiando i pezzi, sia quello di sopra che quello di sotto. Un cappa. Cosa mi hai ricordato Luca? Avevo un amico che quando si incazzava al telefono con qualcuno o con qualcuna sbatteva il telefono al muro proprio, nemmeno io sono arrivato a tanto, sbatteva il telefono al muro, poi diceva a casa alla madre che gli era caduto. Beh, lo sbatteva a terra. Sì, lo sbatteva al muro quando aveva stizza. Vede esaurito. Bobo. Tale Marcello. Che diavolo se lo porti anche a lui. Tu hai il telefono a terra, ce ne vuole. No, non è cosa che potrei fare io. Assolutamente. Eia. No, per quanto stizzito nemmeno io, dai. Ma lui era così. Ebbè, Nataloide, raccontaci, che ufficio dovevi andare oggi? Ma avevi detto l'ufficio del lavoro, cos'era? No, all'inizio sono andato stamattina, credevo che era per la pensione, invece era per la legge 104, capito? Ma qual è? Qual è l'INPS? Quello in via 4 novembre? No, RC2. Ah, vabbè, lì dove, sì, capito. Capito. E cosa c'è invece in via 4 novembre? Ah, no, giusto, IMSS, la CISL, c'è, i sindacati, me. Quelli scaldapoltrona, me, buoni. Già l'hanno aiutata mamma. E come? Già lo so. Vabbè, purtroppo mi diciamo che in quel caso non potevano fare niente, almeno credo. E beh, cosa ti hanno detto Natali? Sì, mi hanno visitato per le agevolazioni agli invali, vieni, capito? Ehi, ma tua mamma era andata per questa gamba, pensa, e ancora camminava leggermente zoppa, adesso è molto peggio, mamma è proprio invalida a voce, solo che non ne vuole fare. Pensi, avremo il parcheggio sotto casa e non ne vuole fare. Bobo. Sì, perché sono lungaggini burocratiche. A mamma l'hanno visitata la casa, però mamma non si reggeva proprio in piedi, poveraccia. Eia. No, mamma riesce a camminare solo quando prende il Brufen, se no le fanno troppo male le gambe. Cammina tutta male. Poi se cade non si sa rialzare, lo sai. Anche appoggiandosi al letto non riesce a rialzarsi. È come che non avesse forze. Vabbè, si vedrà poi, là. E bello, ma tu adesso sei sempre, fai la spola tra casa e l'altro QTH? Sì. Eia. No, io qua meglio che controlli. Grazie a Dio che abbiamo messo la cucina col sistema di sicurezza, se non c'è fiamma anche a fornello aperto non emette gas, se no qua già eravamo saltati in aria 10 volte. E poi è meglio tenere d'occhio sempre mamma, perché così tende un po' ogni tanto a cadere, non è molto sicura sulle gambe. Se cade si frantumeggia, se cade male. Mamma, grazie a Dio, si è ripresa, dai. E non è stata bene. Non si reggeva in piedi. Sai, guarda, credimi, se è stata tante volte grazie alla sedia. Cadeva sempre nel punto giusto per appoggiarsi. Meno male che non ha sbattuto la testa da nessuna parte. Se no, questo era... non sarei stato qua a raccontartelo. Via. Ieri siamo andati con Pomponio, l'ho portato a fare la spesa e io poi dovevo pigliare solo un po' di pane e ce ne siamo andati al circolo, mi sono pigliato un caffè, un bicchiere d'acqua, poi un bicchierozzo di birra l'ho gustato, dai, però mangiando dei stuzzichini che avrò messo al bar, perché se no stomaco vuoto mi crepa, anche un bicchiere di birra mi crepa stomaco vuoto. Poi era un bicchiere largo, non era 0,20, era uno 0,30 quello, era un bel bicchieroccio. Vabbè dai, scusatemi un attimo, io rimando l'ascolto, se no faccio danno qua. Ehi, perché Lu? Ma stazionaria hai? C'è stato questo riparando un computer, cioè lo sto chiudendo, un portatile. No, per quello, ehi, fai con calma, dai. Ciao Natalino. Ciao. E poi già ci vediamo un giorno, non so se dobbiamo fare cose, ordini, prove. Facciamo tutte cose, capito? Facciamo tutte cose. Insomma, ci spargi la notizia. Ah no, ma anche tu stai vendendo, quindi è controproducente per te. Anche Luca sta dando il suo portatile, che è uguale al tuo, amico, il Kiddo Arancione. Tutti vendendo stanno, eh? Però a svendere no. Se no, tanto vale portarsela nella tomba la roba, capito? Mi faccio mettere nella bara i baracchini, i portatili, tutto. Me lo porto sottoterra. L'antenna fuori dalla tomba, così puoi modulare. Guarda, io l'ho pagato 45, l'ho dato 30, ma il mio è nuovo fiammante. Via. No, Natalia, l'antenna è infilata nel sedere, dentro la bara, capito? Cazzo, gli era migliorona. Certo, quando sei morto non senti nulla. Ma ti rimagini che ha questo pirra di sotto? il pompiere non può fare. Avevamo messo uno scaldabagno nel portone, no? Invece di portarselo a casa, non so, è uscito. Dice, è tornato, non ha trovato più lo scaldabagno. Qualche uno nel palazzo se l'ha fottito. Oh. Siccome qua nel palazzo non abitano più le persone di una volta storiche, no, la signora, tutta gente seria, insomma, adesso è tutto villoi, sopra, sotto, davanti, non si sa più chi ci abita. E giustamente gente losca, magari l'hanno visto lì, zac, vai, sono partiti a raggio e se l'ha sopravato via. Fate le immagini, non si può più fidare a lasciare nulla nel portone, un pacco, una spesa anche. Sai quando porti la spesa a più riprese, magari torni giù e non la trovi più la spesa. Cazzo, passa il video di turno, cazzo, te la botta, grazie. E poi ha chiesto a me anche quando stavo uscendo in macchina. Ho detto, ho visto uno scaldabagno? No, non ho visto lo scaldabagno. E quando stavo uscendo io, è entrato nel portone e non ha chiesto, oh cotto, ma tu l'hai preso il coso? Dice, no, non ho preso nulla. Ah, c'è lo scaldabagno, ma li vuol dire. Capito, anche di queste cose fanno purtroppo qua, non lo so più chi ci abita. È tutto marmaglietta. Purtroppo i proprietari, sai cosa fanno? I proprietari abitano altrove, no? E quindi affittano le case a chiunque, capito? Chiunque. Qua c'era un pregiudicato anche di fronte agli arresti domiciliari. Uno che stava girando con una moto priva di targa, no? Uno scooter privo di targa, quindi penso anche di sicuramente senza assicurazione, l'hanno beccato e gli hanno dato il domiciliare ed era sempre lì a casa, qui proprio di fronte alla porta mia. Ma quello non è delinquente, io il delinquente ce l'ho al secondo piano addirittura, ma quello è delinquente a vero, raffinatore. Ah, di una classe superiore, dai. Ah, poi una volta ho notato una cosa strana. Io ero fuori, no, fuori casa, è passato il corriere a portare un pacco. Io non c'ero, ma qualcuno ha preso l'avviso del pacco e ha scritto il suo numero di telefono alla voce per il ritiro. Delego il signor e ha messo il suo numero di telefono che non ho mai provato a chiamare, quindi magari questo, capito, non lo so, mi passa una cosa strana, magari il corriere ripassava, sai, il secondo passaggio, vede l'avviso che era messo fuori, vede il numero, chiama il numero e dice, lei è tal dei tali, sì sì sono io, e si beccava la roba, il pacco mio, capito? Non ho mai provato a richiamarlo quel numero. E quindi ci volevano, secondo me, fottere il pacco, perché io pago prima in anticipo la roba, no? Non lo so, andiamo per niente a bagare, cazzo, ne approfittano questa gente qua, disonestica. Sì, magari era pure quello di fronte a me, lo sai, ci ho pensato, perché di fronte qua c'era un po' di marmaglia. Sono tornati alle 2 di notte, 2:30, a voce, una signora di sotto gli ha detto roba, quelli hanno detto a girargli i coglioni, gentaccia a me, gentaccia, per fortuna mi pare ce ne siano andati. Purtroppo o ci metti gente grande, persone tranquille, boh. Insomma, vedo ragazzi di ogni tipo mandare su, giù, ma ho detto, e questi chi sono? Abitano qua, boh. Secondo me affitta, tipo affitta camere quello di fronte, lo sai. C'è molta gente che fa così, capito? Purtroppo, è cosa che vuoi fare. Se quello del terzo piano che viene a scopare solo con una tizza, un napoletano, Meglia, poi vabbè, può venire il ragazzo di una, la ragazza di uno, ma purtroppo così è. Tutti vanno all'appartamento ma lo affittano e abitano altrove. Va bene. Ah, io non entra nessuno stasera, tutti a dito, eh? Hai capito. Dove ti dica? Non mi si è data attorno la cosa parasole della macchina e l'ho dovuta ricomprare. Si è rotta la molla e rimaneva giù. Ah, l'aletta parasole? L'aveva fatto anche a me una volta e poi l'ho cambiata. Mamma mia, queste macchine, quanti soldi che si mangiano, vero Natalie? Quando devi fare interventi, mamma mia, da mettersi le mantelle. Questo mese inizia molto male questo mese, 200 euro di luce da pagare, l'uno. Il 3 c'è l'assicurazione da pagare, 220 euro, 230. E sono già 400 e più euro, mamma mia. Poi 5, 6, 7, 90 euro, mamma le deve restituire a persone amiche sue. Non so se mi spiego. 60 le deve a me. Cazzi suizo. Un macello, A noi per esempio adesso a mia moglie non gliela danno il primo la pensione, perché il libretto non glielo possono più fare, deve andare col libretto vecchio della pensione a ritirarla e gli tocca il sì. Eia, un attimo, chi è che chiama? Avanti. Avanti Giuseppe. Giuseppe, il segnale non sarebbe male, ma la radio non è molto forte. Non ho capito il passaggio. Ci si aggiunge un po' leggero di QRM elettrico e non arrivi bene, dai. Molto meglio. No, la radio, la modulazione va bene così. E beh, come va Giuseppe, la salute? Ehi Giuseppe, io sono in compagnia di Natalino che però non ti sente, almeno credo. Natalino, lo senti Giuseppe Dalghero? Sì, io l'ho sentito, però non so se lui sente a me, perché già lo sai il motivo. Vedo che non ha risposto, allora no. Che palle, però dovrei stare ai minimi termini. Oh, la verità, anch'io sono ai minimi termini 4 watt, però sai, aiuta la posizione, Natalia, aiuta molto la posizione. E va bene. Pioccole dopo pranzo, il sangue affluisce allo stomaco e non al cervello, in minor misura al cervello, e quindi mi viene la sonnolenza. Ma poi ancora mi tocca la frutta, mi tocca il dolce, e se no che pranzo è? Quindi non è finito il pranzo? No, è che ho sentito Luca, allora ci siamo fermati a parlare. Si capisce? Già ho capito, chiedi a Giuseppe se mi sente. Giuseppe, lo senti Natalino? Vediamo un po' se ascolta a me, Giuseppe, ascolti? Anche qua arrivi bene, quasi segnale no per qua da me. Sai cosa è? Che prima lo sentivo basso anche io, poi come ho aumentato è arrivato abbastanza bene, dai. No, arrivi benissimo, Giuseppe, tranquillo. In realtà Giuseppe sareste dovuti essere molti di più ad Alghero, però alcuni sono diventati radioamatori e non si degnano più di entrare in 27, già lo sai. Aia. Capito Natalia? Si diventa radioamatori e si schifa la 27 poi, come se si salisse di una classe sociale. Ma chi l'andi? Ah vai, e quando diventano radioamatori poi si vendono tutto, perché non vanno né qua e né là. Magari qualcuno sì, qualcuno fa attività e come, ma certi poi dopo la patente non hanno combinato niente. Magari mancano le risorse, io perché ho lasciato perdere? Perché le antenne sono costose, e devo fare una marea di attrezzatura, ma no. Passa via, lasciamo perdere. Aia. Ben pensa a quello che mi avevi detto, che il tuo era il migliore, eppure hai visto cosa hanno fatto. Infatti io non ci provo più perché non posso più fare niente né niente, tu già potevo fare, ma è ovvio da UEFA. Ahia. Mamma di turchi, ecco la Biocco che arriva, che ore sono? Oh, belli bei! È iniziato Bonoli, senti, io vi abbandono. La fanguala, tu e Bonoli, se ti abbandoni. Ieri mi hanno fatto un bel regalo. Sono rientrato in possesso della seconda radio digitale. Lo so, lo so. Ah, eri all'ascolto. Ui. Sì, ma mi sta chiamando mamma. E vabbè, adesso ce l'ho tutte e due, però certo un po' come acquisto, sai. Io quando l'uso con qualcuno non è che devo parlare di cose segretissime, a parte che sei ascoltato comunque dagli organi di controllo, quindi era per provare, sperimentare, però insomma tornando indietro non li avrei acquistati più. Se vuoi sperimentare Natalì, ne approfittiamo. Sì, approfittiamone, quando non c'è un modo di criticare pure. Ci sarebbe il modo di criptare, però non è, è molto illegale per noi, solo la, le forze di polizia possono criptare le comunicazioni, e quella è una cifratura digitale, è una criptatura, si dice cifratura, ma uno dice criptare, c'è una criptatura digitale. Solo che ricordati che quelle me le hanno date già programmate, io non ho idea di come si programmino, ho anche il programma, ho anche il cavetto per programmarle, ma io non ci metto mano. Ho chiesto al negoziante, no, io paraculo, si può avere, mi pare gli ho chiesto o il programma o il file di configurazione dell'apparato, così lo potevo trasferire su altri apparati. Dice no, no, noi non lo diamo, bastardi. Se no, aspetta, tu vai all'altro e muore del macello. Se no loro non vendono più radio, le programmano loro. Se capì? Io l'ho vista la sezione cifratura delle comunicazioni, ma non è arabo per me. Un po' di impegno ci vuole. So solo che bisogna mettere un numero o forse caratteri alfanumerici. Però ci sono altre funzioni di cui non conosco la... altre funzioni di cui non conosco, non so cosa fanno, ho capito come si usa. Non sai l'utilità di queste funzioni, diciamo. Eia. Si può usare anche come analogico, sia analogico che stavo addirittura pensando se possono essere venduti, se vale la pena di venderli. In coppia, sai, qualcuno che vuole parlare a una senza essere sentito. Però, ma è un articolo di nicchia. Di nicchia è, non di minchia. Poca la gente lo vuole, capito? Preferiscono tutti essere in chiaro e parlare con più persone, come facciamo noi. Comunque la radio va bene di questa cosa qui. Sì, è passabile. Oggi hai molta meno scarica, anzi non ne hai. Ieri eri in Belgio. E cosa hai toccato? Dimmi. Io ho messo la capsula vecchia e sembra che stia funzionando. Sì, adesso funziona, i toni sono prevalentemente bassi, però non hai tutte le scariche di ieri era allucinante. Era la capsula che non serviva, va. Mi ha detto, metti la capsula del telefono, sì, col cavolo, non serviva a nulla. Beh, ce l'ho io Natalia, io ce l'ho cassa, dal telefono del Sirio. Cosa vuoi dire? Sono traviuti, devo punirlo. Io ne ho giocato dal Sirio, però non andavo a Inti. Mi guardissi tutta scariche. E ce l'ho a metà, no, per non disturbare, se no se aumento, aumenta pure un bel radio. E cosa vuoi dire? Ah, io voglio vista, e andrò un bel di più. Vuol dire che quella che avevo io era scassata, cosa vuoi che ti dica? La piccolina ho messo, quella piccolina piccolina. Sì, sì, sì, ho capito. Quasi piazzato, una parte. Sembra così, ma smontano un portatile e poi ricordati il passaggio dei cavi, quello del wifi, insomma, un casino. A che ti devi segnare a Rosa Siviani? No, no, non è quello, il passaggio. Il passaggio dei cavi. No, comunque già l'ho sistemati, dai. KK. Dire con la siamo fuochi non troviamo mai, comunque mi sa che davvero se devo proprio votare voto Salvini, tutti a casa, capito? I carboncini tutti a casa, meglio la Meloni, che se no ci tolgono le armi. Perché Salvini è per togliere le armi? No, non l'avrei mai detto. Perché è uscita questa direttiva 477 europea che ci vogliono disarmare a tutti che hanno paura, o sai che ci rivoltiamo. Adesso bisogna vedere se mi rinnoveggiano i bolsulai, ma che c'hanno. Ah, Natalia, ho visto un video in Ungheria dei soldati di frontiera ungheresi che respingevano i neri. Ma c'era l'esercito, l'esercito c'era, carri armati, coso, proprio li hanno respinti, recinto, allora di brutto, come dovrebbero fare in Italia, solo come fai a bloccare il mare? Vabbè, metti delle, certo coprire tutto l'arco di mare, è un bel grande, li proprio respinti malamente. Li hanno anche inseguiti con manganelli, coso, scudi, li sanno come agire. Il mare è più facile di quello che tu credi e noi l'elettronica navale ce l'abbiamo, è la migliore del mondo, fatti il conto. Se tu pensi a un peschereccio, quello di mio fratello, a 40 miglia ti vedevano, col radar che avevano, fatti il conto. A 40 miglia, caspita, pensa a quelli militari, mamma mia. E che te lo sto dicendo? Salva flotte, tutto, metteva le coordinate e ti portava da sola la barca. Abbiamo un'elettronica navale noi che non finisce più. Poi, tra l'altro, abbiamo anche le navi. Ti metti in acque internazionali, come li vedi arrivando, li dai la voce. Ma sotto! Neia. Purtroppo ci hanno preso per la meretrice del Mediterraneo a noi, capito? La Francia non ne vuole, i paesi baltici non ne vogliono, o comunque i paesi slavi lì. E ce le dobbiamo carrare noi. Non è che ce li dobbiamo carrare, ce li stanno facendo carrare perché si impacci in Iridina. La questione sono solo una cosa, i soldi, capito? Perché se no nessuno li vuole questa gente. Ma non lo vedi che cazzo me ne avrei fatto la vergogna di fare sbarcare questi immigrati e tenerli cazzo nel cesso? Io se ho scritto una persona l'abito in camera da pranzo, non nel cesso. Eia. Ieri c'è stata una rissa tra nigeriani al corso. Una rissa tra nigeriani. È intervenuta la polizia. Capito? Si cavano gli occhi anche tra di loro, quelli là. Ma io non li avrei picchiati col manganello, il picco me ne avrei tolto. Ehi, già fa male il manganello pure me. Cacchio, gomma dura e ciucciù. Ehi, ma la bicchia ha cricco. L'avevi lasciato l'orma degli stivali sul petto della radiomobile, mi. Cazzo, sì, ci sono delinquenti, non hanno ancora compreso. Nel loro paese li sparano addosso. E poi loro dicono di essere tutti, come si dice, rifugiato politico perché c'è la guerra, ma in molti paesi guerra non ce n'è, in molti di questi paesi non ce n'è guerra, loro vengono in Italia per farsi la vacanza, capito? Tu devi pensare che una volta che sono qui, e vogliono fare anche lo ius soli, quando fanno il raggiungimento dei familiari, portano questi vecchi, no? Quelli vanno all'INPS, fanno la domanda, senza aver versato un giorno di contributi gli danno la pensione, giusto ti sembra? E gli italiani crepando di fame. No, infatti non è giusto, non è giusto. Ma questo ius soli è passato o è ancora al vaglio? E aspetta il 4 marzo, che la Biglianivona, si entra poco la Meloni, ministro del Consiglio, sono cazzi. E vuoi vedere gente buttata a mare? Perché cazzo quelli che non sono regolari, li avrei tutti rimpatriati, e bue, manco col biglietto ti avrei fatto entrare se non eri in regola. Come fanno negli altri paesi civili, non come fanno qua. Chi no che sono i politici che ci impattino di là e malasotti la cuvia. Sì, come in Australia. Se entri deve avere documenti, deve avere una ragione valida. Hai visto quel programma? Sono tremendi là, sono tremendi. E vabbè, ma l'Italia è un paese di Arlecchino, capito? Un paese di buffoni. Ma sono i politici e le cooperative dei politici che ci guadagnano, no, non hai capito che lo fanno per soldi, se no anche qua sarebbe stata ristretta la cosa. Lì, se tu non hai i soldi per mantenerti, non ti va di entrare. Quindi quanto tempo ci deve rimanere? Un mese. Ecco, che di sani, un mese in chi vivo tanto va di $1,000. Se tu non ce li hai, ti va di non voglio di via e ti si manda. Mamma mia. Vabbè. Magari ci passano la parola. Mica in Italia si sta bene, ti danno da mangiare, da dormire. Secondo dove vai è bello, c'è il mare, capito? Come la rotonda che si faceva nel bagno, il mare. Non tutti, certo. Ma un po' di gente di questi neri ci faceva il bagno. Figurati. No, ma lo sai cosa dicono i nigeriani? Noi andiamo in Italia perché lì possiamo fare quello che vogliamo e non ci fanno nulla. Capito? Sanno già che le leggi nostre sono in favore a rubibanti. Conoscono tutti, prima di arrivare qua, sanno tutti i diritti. E li toccano, capito? E se li buceggiano i buracchi, sono delinquenti. A voi non ne travagliano manco si rammazzi, gitti. Ci sono tutti magnacci, le donne sono prostitute, spacciatori soprattutto, perché spacciano la droga, sono i nigeriani. Lo so, mamma mia, bel posto è diventato il Corso Vittorio Emanuele, mi. Ma i residenti certo non saranno contenti, no, quelli italiani. Ma sono atti chirri sempre, poveracci, cazzo che non li lasciano dormire, fanno casino questa gente. Guarda, io ne conosco gente che abita lì e si è lamentata fortemente di questa gente, fortemente però, mi. Cazzo, se ci avevano fatto il ritrovo oppure gli erano chiuso i vigili urbani perché non avevano le licenze in regola. Ma va, non so così l'hanno durata da brillo. Sì, su, pure il ritrovo, il circo lo siamo fatti. Mamma mia, sei più loco me. Eia, c'è un nigeriano che vuole comprare qua un negozio grandissimo. bellissimo che c'era qua, che ce l'avevano i napoletani, per fare una moschea, 150.000 euro sull'unghia. Con i soldi della droga. Ehi, fanno i muri di naghi, e allora tu non hai compreso. Cazzo, ti fanno i telefoni da 1.000 euro. Cazzo, che io non l'avrei mai comprato un telefono così. Io non mi pare costa 200 euro, 4 rubonte. Ed è un Samsung. Però quelli ce l'hanno, meglio del mio. Ehi, il mio è ancora meno. Il mio è un Huawei pagato 140 euro, 130. Capito? Niente, non faccio follie per i cellulari, assolutamente. Sono vero cellulari 6, 7, 800 euro, anche 1000. Un cellulare, ma stiamo scherzando. Sembra esagerato spendere cifre folli per fare un cellulare che fa poi le stesse cose che fai con un altro cellulare meno costoso. Perché a navigare naviga lo stesso, a ricevere la posta, riceve, le applicazioni sono sempre quelle. Certo, un po' di memoria aiuta, però. Pure. No, io mai ne avrei comprato. Il mio è un G3 della Samsung, neanche il più buono, figurati, perché c'è, già ci sono quei Samsung che portano un sacco di soldi, però io non li avrei mai spesi quei soldi. Vuol dire che soldi loro ce li hanno. Eia. Maronna. Non entra di giù, no. Siamo solo noi. Allora, io mi sono comprato. Un affare ho fatto, mica nuovo. L'ha pagato il padrone 1.000 euro quasi. Io l'ho pagato molto di meno. Il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Io non lo conosco. Cioè, non ho la cultura dei cellulari. A me piaceva invece questo Huawei P9, P8, no? Lite oppure non Lite, però costano un sacco, non è roba per me, dai. Questo qua l'ho pagato 930 euro, 2 anni fa. Eia. Io assolutamente non ho mai passato, io avanno, non so quanto costa il mio, sono il G3 della Samsung, ma... Tanto io non intendo bari telefoni, già una giamba ad uno o due, però cazzo io gli ho fatto fare la battaglia di Crimea a tutti i telefoni, no, io non ne cambiavo mai se proprio non era crepato il telefono. Città mercato uguale e avevo messo il kit viva voce dalla me l'avevo fatto piazzare proprio, c'era il volantino fuori dalla macchina, cazzo era bellissimo, 1.500.000 mi sembra l'avevo pagato, era sottile della Motorola, era. Sì, ma è vero, all'epoca costavano così, io mi ricordo di fare un 8009, sai, Motorola 8009, tipo 1.400.000 lire, non è come adesso anche con 29 euro, anche 24, anche meno, ci sono quei copper schifosi dell'Euronova, costano roba di 20 euro, buce e tutto. No, quello che avevo io, che l'avevo piazzato sulla Giulietta, quello era bellissimo il telefono, mi diava in ogni arugo, c'avevo messo l'antenna nel tetto della macchina, piccolina, come io lo infilavo nel veloce, si inseriva anche l'antenna, capito? Era in casa. Caspita, addirittura l'antenna esterna potevi mettere, minchia, così è bello. Sì, me l'avevano piazzata. Quelli che c'erano sotto Alessio c'avevano l'officina per piazzare questi telefoni qua. L'avevo comprato lì, come scarpa si chiamava, quello che c'era sotto Alessio. E mi avevano fatto entrare nel cortile per piazzarlo. E avevano piazzato il viva voce, e poi il biliardo sul rudere per 1,5 milioni, più il viva voce. Ho fatto un sacco di soldi, l'avevo pagato. Questi giorni io ce l'aveva il padrone del bar di città mercato, però io lo usavo per lavoro, lo usavo, non per giocarmi. Io il telefono non l'ho mai usato per giocare. Anch'io. Il telefono si usa per cose necessarie. Buonasera. Ciao già, buonasera. No, come ti dici, mi sa che ti ha preso il telefono in mano, non ma niente. Dopo chattava facendo lui. Dal medico ti ho contato, c'erano 9 persone e 7 erano tutti con cellulare. A fatto di quel cellulare, non vedo il mio, io sapevo se chi sia, nel giubbotto. Ciao Gianni, ben entrato. Ciao carissimo, mi sei detto anche a te, anche a Luca, buonasera. E mi stavo ascoltando, però stavo messaggiando e quindi non sono entrato per questo. Nel frattempo sicuramente dovrò uscire. Eia. Stiamo parlando di telefoni, per esempio come Natalino io non lo cambio finché non lo sfascio, proprio quando non funziona più, e comunque io per smartphone spenderei massimo 200 euro, massimo. Quello che sto usando costava sui 130-140, certo non sono molto performanti, ma grazie a Dio ancora riesco a navigare, a parlare su WhatsApp, a ricevere la posta, a vedere i video, quindi per me ce n'è d'avanzo. Sai cos'è Marco? Che io 600 euro con la radio non li spenderei mai, è quello. Io ne avevo spese come? Quadribanda, Chi ne spende 1,200? C'è chi ne spende in telefoni, c'è chi ne spende in radio. Io in radio non le spenderei mai, mai, poi mai, ma poi paghi su Give e va. E adesso non ne vale la pena, ma ai suoi tempi ce ne ho speso soldi anch'io, ma molti però. Sì, non dico che saremmo stati tutti chi la prima. Sì, altro, tutti i soldi che ho speso io per la RFL Radio, avevo quel quadribanda che aveva Marco, avevo il 440 tutta la linea, ma tu lo sai che ce l'avevo poco da fare qui, di banda lo si conta. No, non lo so io, ce li ho visti, non è che me lo stai dicendo una cosa a voi. Ho visto tutto io. Quel 440 non l'avrei mai dato, lui era a cazzo una bomba. Cosa è finale del 940, cazzo, era una bomba io. Già si rivicchia a poco il salvatore quando stava. C'avevo il dipolo che c'aveva tutte le bande, anche gli 80 metri c'aveva quello che c'avevo io. Cazzo, in un gnarugu, cazzo, io stavo al computer e lui parlava, perché lui c'aveva la licenza. Io gli dicevo, mi, chiama Izzo, si va a me fa vendere di DX. Si sarà divertito poco con quel tipo che gli ho fatto io. No, ma io quest'estate ce l'avevo ancora, poi non so cosa sta facendo adesso, è stato già. Ciao Franco, ben entrato. Ciao Franco. Ciao Franco. stato un casuale, ma da lì avete fatto attamente pure il comune per la sua attività. Ma io ero contento che ce la sistema attuale, non mi dispiace. Salvatore chi? È un radioamatore, forse tu non lo conosci, quello che andava in moto, c'era una moto rossa e lui era rosso come la moto. No, completamente sconosciuto. È stato il continente, è andato alla zona industriale, ha fatto un periodo. Ciao già, ciao Luca. Però mi sento. Capita, noi sono un grimbato, sono da una cosa all'altra. Perché sono andato mi avevano preso l'orario alle 11:30 e mi dicono che era alle 9:30 l'appuntamento, mi hanno mandato via. Ma era chiusura oggi alle 8. Sono dei pirla, sono. Questo sono 9:30 di Amiga. Gianni, io non sono andato perché pensavo che era per la revisione della pensione, invece lo sai cosa era? Per la legge 104 mi hanno chiamato, ma ne bisogna del tutto, adesso devo andare a giugno, torna, mi devo fare tornare quelle visite lì e mi devi durare la visita. Macchina andava a ammazzarsi. Ma tu ce l'hai per la legge 104? Ehi, però mi hanno chiamato all'Inps proprio. Mi hanno visitato, lì gli ho dato i fogli delle visite che avevo fatto prima, il giorno 16 le ho fatte, le altre. Adesso mi tocca riprenotarmi per rifarmi le visite, a chi mi ha per i certificati medici per quell'altra commissione che mi deve visitare a giugno. Però io mi devo togliere la valsa che mi funziona. Non si sa se ce la fanno a chiamarmi a giugno, se mi chiamano a corso sono chiusi, quando me le faccio le visite? È un casino, e ogni pagamento che si rifanno tutti in fretta, oppure la tariffa, se c'è da aspettare per fare poi lungo l'impatto, perché te ne danno gli appuntamenti, te li danno dopo un mese e mezzo. Oh, grazie a Dio quella segretaria già mi mette in mezzo, perché lo sai che sono felice. Io lo porto a maggio, in modo che faccio la visita a maggio, mi prenoto ad aprile in modo che la faccio a maggio. Una volta che loro mi chiamano io ho il foglio che non è scaduto e vale, capito? Poi già mi visitano anche là. Noia. Insomma, cercare di fare il tutto per sgattaiolare sempre. Io ci ho prendito tutto da figlia minina, compreso. Ah, appunto, sono di parte anche da qui. Cos'è la legge 104? Pepe? Ho fatto che stavo facendo il caffè già, a Pangualla. Mia moglie non c'è, che è andata da Lanca del cuore, ma comare. Io ho detto, cos'è la legge 104? Sì, sono agevolazioni che danno agli invalidi, capito? È una legge per gli invalidi. Ah, boh. Sono talmente al di fuori di queste cose, mamma mia. Eppure già sono guasto meglio, di guasto di me non le trovi. E allora fatti dare la pensione, se sei guasto, come me. Sei poco. No, vabbè, ma io non ho avuto niente al cuore, insomma, una cosa non riconosciuta. Beh, Natali, vedo che sei in buona compagnia, allora io vado a vedermi buonori, dai. Buon proseguimento di serata, dai. L'avevo detto che se ti occupo, ma ne vai, va. Almeno il lavoro già te lo danno, perché per darti il lavoro bisogna che sei o ex detenuto o ex drogato, oppure immigrato. Immigrato, allora mi metto lucido da scarpe in faccia e vado. Io essere qui per lavorare. Sì, buona. Qua non c'è lavoro, come possiamo? Ma mi manca una cosa degli immigrati. E cosa? E che chi è che ti arriva al ginocchio? E ti metti una proboscide, siamo colleghi. Caspita, ho visto un video. Un video ho visto di questo nero. non so cosa sia, gli arrivava al ginocchio. Ma è una ragazza che lo teneva in mano, bella, sorridendo, tutta interessata, facendosi le foto, bubu. Ho detto, non può essere vero, non può essere che arrivi al ginocchio. Non può nemmeno fare sesso quello lì, che si piega, in quel senso lì. E così non si ribuga. Se c'è una persona che conosco io che ne ha... uno due ne ha mandato all'ospedale. Mamma mia, già ti mando il video dopo, così te lo guardi. Mi vengono i brividi solo a guardarlo, dai. Ciao, a dopo. Cioè, a domani. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Franco, Luca, Gianni e Natalaino. Ciao, ciao. Guarda che abbonuli, ci guarda. Tutti morti? Vai, va, secondo me è cuocuoma, non è quello. Infatti il lavoro glielo danno, lui dice che è cuocuoma. Ah, Luca, vivo via di tu caffetta. E auguri mille. Io ho preso prima la donna amico al circolo. E io comincio a bigliare a rubare, vado la macchinetta e mi lo porti, no? E fai bene a Natale, che se la vedi qua? Come si vuoi fare mia? Infatti, stai bene a farlo. Questa città va dal PC a Stefano, come ti ho detto prima, poi si finisce, eh? Ma c'era Gianni pure, c'era Franco, tu ti sei sparito, so. E io a Franco l'ho salutato, non so se mi ascolta. Franco, mi ascolti? Sì, positivo, dai. Va bene, tanto io tra un po' vado via, dai, c'è la mia 25 che sennò poi mi martella. Via, farò davvero. È duro scappellato, sarà malico di paracqua. Che bello, Antone. Che bello, dottore. Ehi, guarda che c'è la... c'è un po' di ruota. Stavo cercando quel portatile con quella finale lì, ma non mi ricordo dove l'ho messo. Comunque prima o poi lo troverò, dai. Ehi, vabbè, non c'è fretta, c'è, non ti preoccupare per quello. Sono appena rientrato, sono andato lì a pigliarmi, a farmi un giro e mi sono comprato i trotali, mi sono comprato. Chissà che siamo buoni, boh. Ai trottani, cioè un misto tra un trotano e una trotta, bello, bella bestia deve essere. I trottani 1,99 ho comprato, dopo me li faccio fritti nella friggitrice. Ciao Luca, saluto anche a te, anche a Natalino. Un giro per mannaggia, Giga. E allora insomma, me ne sto a casa lampato. Io dico la paragonia, mi viene. Ma io stasera non sono uscito, stamattina ero in giro, ero in giro stamattina, però stasera non sono uscito, avete messo in un bel freddo buio. Freddo c'è, ha segnato neve domani, nei rilievi della Sardegna, quindi una capazzata ce la devo aspettare domani. Forse hai visto di forza. Ma già va bene, già va bene. Guarda, se non fosse un casino parcheggiare, vorrei più volentieri al circolo, Antonè. Sì, vabbè, già c'è, perché basta la limite che si parcheggia via davanti, qual è il problema? Sì, i parcheggi già si trovano via davanti. Ma non li trovo vicino a casa sua e c'è lo stesso problema mio. Il trafiglia ti d'arco! Cosa c'hai a toccare la macchina per andare al circolo? Ma io vado da Antonello a pigliare macchina, poi facevamo commissioni, poi lì, capito? Hai visto quello stronzo di ieri? Ci passava un camion, ci mette lì, proprio, stavo per dire, ma cosa... Ma c'era lo spazio, e come vedi è entrato, ma stava entrando piano piano, e cazzo, c'era un metro da una parte, un metro dall'altra. quel tunnel lì entrando. Ma per carità, cos'era, una donna? Boh, non si sa. Donna al volante, pericolo costante. Eia. Vabbè, comunque, poi l'ho trovato il parcheggio. Però ho avuto culo, certe volte non c'è niente, né in via 4 novembre, né in via Tempio, niente, né in via... puoi girare ore e ore e non le trovi mai. A me lì, in quello giorno, mamma mia, l'altro giorno quando sono andato... Sì, quando è che tu mi hai detto? Vado, entra, adesso. Ho dovuto proteggere la macchina oggi, qua, lontanissima. Vabbè, ma c'era anche Franco da Sorso, fate girare. No, che c'è la gente. Ah, è già nero, più rum. In abissato. Ah, in abissato, via. Ha detto doveva uscire a breve. Evidentemente doveva fare qualche commissione, a portare il cane, forse. Ma quindi Antonio, oggi a casa te ne stai? Sono appena rientrato poco fa. Io sono uscito con Mario, sono andato lì a Lido, sono fatto un giro, mi sono pigliato i tottani e poi sono rientrato a casa. Beh, sono venuto una birra qua sotto da quella ragazza nuova che c'è qui, che è buona, e poi sono rientrato a casa. C'è freddo fuori me, cazzo, ho sceso anche il cane giù. Oggi non sono andato a riscendere in nessun posto in giro. È proprio freddo. Ehi, vabbè, in macchina c'è riscaldamento, vabbè. Se vai ai piedi, sì, c'è freddo. Vabbè, basta pigliare il tram, eccetera. Beh, davvero tanto freddo c'è. Non... Vabbè, ieri, a parte che c'era il sole, ieri era una bellissima giornata. Poi, vabbè, appena calato il sole è un po' più fresco, ma siamo stati tranquilli ieri, no? Ehi, tranquilli, tranquilli. Alleluia. Stavamo bene, ci stava bene, anche fuori ieri sera. Oggi c'è molto più freddo. Capito? Infatti sono rientrato a casa, sono rientrato. Sono andato a capisciare che adesso c'è un freddo pure io. Un più botto. Antonio, ieri sera ho trovato un parcheggio, sono tornato a casa, mi stava scoppiando la vescica. Entra dentro a fare il coso. Boh, tu, no, già ce la faccio. Tu qualche giorno vedrai che ti porti la busta, ti porti appresso e la riempi. Quella, già te la porto io, quella di Giampiero. Li metti come se, un imbuto e ci pisci dentro. La sacca dell'orina, mamma mia. Sì, mi stavo pisciando, anche parcheggiando. Ohia, io lo faccio in strada, tanto era tutto buio. Tra due macchine mi metto la faccia, invece sono arrivato a casa, mi sono fatto questa... Mamma mia. Scemo io, potevo andare nel gabinetto, però sai, non mi fido del gabinetto dei circoli. Chissà in che connessioni è, magari tutto pisciato intorno, vabbè via, in terra. Ah, già, tranquillo, non ti preoccupare. Sai, lì mi tentavi qua al bar, e qui è pulito, quel bar che c'è, il rifornitore, entravi da dentro, con quella ragazza, e dici, dammi la mano a tenere la ferma, ma che fuga. Invece in quel bar di Piazza dei Segni, dove c'è MD, c'è una tipa, Medjugorje, una delle cameriere, ma la stavo guardando l'altro giorno, bella formata dietro. Maniaco, manico sessuale. E poi non c'ho più 20 anni, non è che posso spaziare come prima. Adesso dovrei stare più con quelle quarantenne, no? Capito? Certo, le ventenni sono più ben messe, senza rughe, però bisogna crescere. E beh, quello che c'è, è vero. Quello Tommy, poverino, lui è bravo, Avanti Natali. Ma hai visto, dai, un cane mangiando i banaccati? Il mio mangia pane, formaggio. esempio, si beve anche la birra dal bicchiere. Ma caspita, l'altra volta, una volta hanno fatto vedere a Paperissima, caspita, un gatto che si stava mangiando la banana a quattro ganasce. Il padrone teneva la banana sbucciata e che domani a quattro ganasce, a morsi pieni. Un gatto che mangia la banana, mai visto una cosa del genere. E in un'altra puntata hanno fatto vedere la stessa cosa, però era un cane che si stava mangiando una banana, capito? A morsi. Mai visto una cosa del genere. Guarda, gli animali sono incredibili certe volte. A Torino invece il cane lo portava a pesca. Portava dalla canna alla pesca, pescava il cane, si buttava lì, tac, e portava uno a uno sopra. Perché non lo sapevi che fa venire un cane a pesca? Allora è un pesce cane. Allora? Io organizziamo una pescata, io mi metto la lencia nuova sulle canne, ma anche per divertirci, mi ci portiamo la luce, il fuocarello, ci portiamo tutto. Sì, ci portiamo qualche chilo di bistecche lì, qualche boccione di vino. Guarda, c'ho anche il barbecue portatile, alla fine da una pescata diventa una diventa una mangiata. Sì, bella paura tu. A me va bene, caspita, c'ho la carbonella, c'ho il barbecue, come dicevo io da piccolo, leggevo dei giornalini barbecue, non sapevo che si dicesse barbecue. Bisogna dire a Gianni, organizziamo, anche a Gianni gli piace pescare. Sì, ma non per pescare, per stare in compagnia, ci divertiamo, a fare la zingarata a me. Bene, bene. Bisogna organizzare. Organizziamoci, cazzo. Meglio. Tutto si può fare. Oi, oi, oi. La biocco cresce, mi ho mangiato la frutta, adesso mi si chiudono gli occhi, la mia mente svanisce. Avrei voglia di sdraiarmi, però poi alle 8 ci facciamo il caffè con mamma, perché se no mi si addormenta lei e mi addormento io, capito? Beviti la bottiglia di Ramazzotti. Come, Antone? Beviti un po' di limoncello, o di quell'amaro ieri sera. Quale amaro? Amaro, quello che abbiamo visto, crema di liquore al pistacchio, mamma mia che colore! E poi l'altro disco lì sopra. E il limoncello è buono, sia il limoncello sia la crema di limoncello. È buona, sì. Poi te l'ho detto, è buono mangiare la barretta di cioccolato da lì, che ti ho detto ieri, già ce lo ricordi? A voglia che me lo ricordo. Che porcaccioni, cazzo. Poi Natalino ci dice che abbiamo come siamo coloriti. Sì. Se mi fa dire Natalino intanto, come siete coloriti? Bello colorito siete, Beh ragazzi, io ho compito, l'ho piazzato, funziona benissimo. E adesso me ne vado nell'altro QTH, dai. Alla prossima. Ciao. Ciao Luca. Ehi, allora non ti preoccupare, perché da AliExpress io ho ordinato tante cose e sempre è arrivato tutto. Magari ci metteva due mesi, però alla fine arrivava tutto. Sì, se non arrivi, va bene, se vuoi ti dica, non è che... mi ha mandato il coso, Luca, la percentuale è oltre il 50%, vedi un po'. Era il 20 di febbraio al 6 o al 5 marzo. Consegna stimata. Eia. Eia, sì, ci ho ordinato di tutto, fornelletto a legna, un'antenna, vari pendagli, bigiotteria per mamma, qualcos'altro ho comprato, è un bel di roba ho comprato comunque. Anch'io non mi fidavo perché sai, quando compri da un negozio nuovo cinese non ti fidi mai. Poi vedo che proprio i cinesi sono quelli che spediscono sempre, invece chi ti fotte l'italiano, soprattutto il napoletano, mi è l'onfio. Ehi, vabbè, là, ciao. Ciao Lu, ciao, buona serata. Ciao Luca, ci sentiamo. Adesso Antonio, ho dato una pulizina con la... ho tolto un po' di polvere col pennellino a quella radio, l'ho messa in carica e così poi sono pronte tutte e due all'uso. Ah. E diciamo un acquisto un po' avventato è stato, perché alla fine è più bello parlare dove c'è un bel di gente, capito, che non da soli. Finché ce l'avessero tutti è un conto, ma già basta il PMR, dai. Sì, appunto per quello. Quello uso lo controvare, almeno vado tranquillamente da casa tua alla macchina. Fai le prove, almeno sei tranquillo. Sì, anche quell'uso. Oppure quando andiamo da Oshan, che mamma se ne va per i cavoli suoi, no? Sparisce ogni volta, devo telefonare, dove sei? Invece almeno così risparmiamo il telefono. Tanto lei già la, bene o male, lo sa usare, no? E così siamo anche poco sentiti. Non che diciamo niente di che, mi. Bene, ma oggi ho lasciato stare Bonolis, dai. Perché se no ogni volta al baracchino lo trascuro e poi Natalino mi dice vai vai tu, vai a vederti Bonolis. Ma perché sì, la pescata bisogna organizzarla. Ehi, io faccio l'esca. Portiamo tutto, tende, sacchi a pelo, tutto portiamo. Facciamo il cocio anche, come si chiama? Il fuoco con la legna. Andiamo tutto a porto cose. Poi ci vuole una chitarra per suonare e cantare. Così viene la forestale e dice, ma voi dove credete di essere? In Italia. Qui già che siamo a un passo andiamo a violentare quella vecchia. Quella vecchia che c'è in quel telone. Così trovi in mezzo alla ricotta mustia. Pucci, pucci. Ma tu pensa che abbiamo freddo noi? Quella che deve vivere lì, con quel salone che copre, che però c'è un freddo da... c'è un freddo terribile in inverno, un'umidità poi altissima, e quella donna vive in quelle condizioni. Io mi sarei arreso, sarei andata in un ospizio, non lo so, in un dormitorio pubblico. Infatti, come si fa a vivere così alla diatta? Io non lo so. Può darsi che sia non tanto giusta di testa anche me la signora, dopo tanti anni. Boh. Tanto la casa non gliela darà mai nessuno, capito, è stata lì, non gliela darà mai nessuno, quindi è meglio che si arrenda, perché o ci muore lì, te l'ho detto, o ci muore di stenti, oppure... Boh. Se immagini dare fuoco al talone e lei brucia le dei dentro con tutta la mondezza che c'ha. Subito si dia fuoco. Poveretta, guarda. Poveretta. Però dipende anche da lei. Lei non può vivere così. O si arrende, se ne va in qualche dormitorio per la notte e può girare, può stazione in giro a Sassari per dormire, a quell'ora torna e dorme, però dorme al caldo in un posto sicuro e non in mezzo proprio, vabbè, fate vopis, io non ci metto parola, tanto quella è testarda. Scusa, quella non cambia idea. Perché poi se ci muore lì, vedrai che cercheranno un responsabile, cercheranno di trovare un responsabile se il comune non si è preso carico di questa donna, no? Vedrai, cercano sempre un responsabile quando muore qualcuno, anche di stenti. Guarda, c'è il sindaco che abbia venuto un carro, adesso Ernesto lo vogliono vendere il ristorante, prima gliela Cosa cazzo c'è, ma guadagnato a chiuderglielo? Boh, dimmi tu, ora non mi dico, e chi sa se me le comprano pure. Sì, sono ottusi, era meglio che ci guadagnassero quel poco che non lasciarlo fermo. È gente ottusa, c'ha i vermi nel cervello, per non dire di peggio. Ottusa è vero che le spiagge le stanno rovinando, Marco. Non so più posteggi, hanno fatto un casino in tutto Blatamona, ma mi dico, io non l'ho visto, però mi hanno detto che hanno fatto un cinque. L'hanno fatto. Altro che... Altro che hanno chiuso il quinto pezzo e hanno fatto un mini parcheggio facendo questo enorme pontile tutto a zig zag, questi stazzi per le pecore. Il quarto lo stesso, hanno chiuso l'accesso alla rotatoria e anche tra il villaggio grigio e rosso lo stesso hanno chiuso l'accesso alle macchine. Ma cosa se ti vendi? Ma qual è il sindaco di Sorso e non è quello di Sassari? È quello di Sassari è peggio. Quando siamo scesi a fare il sopralluogo era crollato il coso della rotonda, ma lo vedi, l'architetto me l'ha detto, questo qui cazzo gliel'hanno preso a Ernesto, almeno questo qui guadagnava, lavorava e tutto, guarda cos'è, tutto da rabbia. Sono degli idioti sono. Adesso voglio vedere chi glielo compra, non è facile, no, a vendere così. Bene bene, cioè male male. E loro vogliono caro, ho sentito che i beni del comune stanno vendendo, no? Praticamente Ernesto, il ristorante di Ernesto era del comune, e il comune se lo vuole vendere adesso. Chissà che a cavolo mi ricompareggia. Non penso brutto, non c'è di là, non vi. Ascolta, il locale dove c'era l'Ouro do Brasil, quel bar che c'era andando a sinistra, a destra, no? Una volta, me lo ti ricordi tanti anni fa, Ouro do Brasil, e quei locali di chi sono? Ce l'avevo, un certo Sava, non lo so se sono del comune anche quello, l'Ouro do Brasil. Quello era il compare di mio fratello, quello che c'aveva quel bar lì. Insomma, mi piaceva di più prima, dove c'era il ristorante di Ernesto, c'era tanti anni fa l'Ouro do Brasil aperto. Oh, a me questo Lido Titanica, come ti si chiama, non mi piace questo bar su Palafitte lì, vabbè, contenti loro. Contenti tutti, non sempre sapere. C'era andare in gruppo a pestare il sindaco di Brutto, me, quando finisce la sua carica, me, che diventa un cittadino normale, dagli una ciuscia, ma una ciuscia. Ma anche adesso, se gli hanno detto buffone, già gli hanno detto poco di cose, io mi sarei dimesso se l'ho fatto che lui. Ma quelli sono testardi, non si dimettono. Gianni do Piruma, sei ritratto, dove sei? Dove sei? Oh, quello a portare il cane, non vuole solo che a noi. Sta portando il cane quello lì, a quest'ora, sono quasi le 8. Ma potevo avvisare, no? Sì, evidentemente ha visto che non mollavamo e si è avviato. Il mio è già uscito il cane con mia moglie. Ma caspita, sono davvero quasi le 8 meno 5. E mi sa che adesso chiudiamo, là, perché comincio a fare il caffè. Bonoli si è finito, sicuramente lì c'è il telegiornale, magari anche un'occhiatina al telegiornale li darei almeno alle notizie, non politica però, alla cronaca. Politica non ne voglio nemmeno sentire, guarda. Ma quindi dici che è meglio votare Meloni, così è? Perché mia zia vota Meloni, l'ha già detto. Ma più coerente, almeno quello che dice fa, quello è fascista. Mamma mia, c'è un freddo ai piedi, ho delle pantofole con macchie, no? Però sono tutte forate, sembrano come dei sandali, c'è un freddo ai piedi, mamma mia. mi devo cercare quelle pantofole calde, calducce, imbottizze, se no mi viene un malanno. Oh, comunque qua niente cocio, influenza niente ancora. O non la, secondo me non la prendo. Ormai è passata, cioè, la spesa me la sono vista brutta, Marco, questa volta mi ha ucciso. Meno male. Io già credi qua. Ho questa volta ci rimetto le segni. Eri preoccupato, no? E cavolo, se ti viene così all'improvviso poi, stata... Rindomà è venuto il figlio di mia moglie, con la fidanzata. Cazzo, l'indomani tutti due gribati, io e lui, evidentemente ci hanno contagiato loro. Caspita. Vabbè, dai, vado a vedere il telegiornale che mi pare sia già iniziato. Ciao Antonello Pomponio, se sei all'ascolto. Ciao Natalino, dai, a domani. Mi il malanno. Toccati Marco, buonanotte. Ciao con tu, anche io chiudo adesso. Ci sentiamo alla prossima. Sogni duri. Sogni duri, ciao. Ciao, ciao.